Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti. Noi siamo pronti per partire, ma prima di ascoltare i titoli del nostro sommario ringrazio in regia Fabio Cantadori, in redazione Laura Vanossi. Siamo pronti, partiamo. Cheratocono, dalla diagnosi alla terapia. Disabilità e diritti umani, tra presente e futuro. Riscaldati con lo zenzero. Keratocono, da keratos cornea e cono. Dal nome capiamo già qualcosa di questa malattia che tratteremo oggi nel corso della trasmissione. Nei pazienti affetti da keratocono, la struttura della cornea si assottiglia, si deforma e tende ad assumere la forma di un cono, da qui il nome. La curvatura irregolare che si viene a creare cambia quindi il potere refrattivo della cornea, producendo di conseguenza distorsione delle immagini ed una visione confusa sia da vicino che da lontano. Fino a qualche anno fa, per i pazienti, la strada era segnata. Infatti la correzione di questo grave difetto refrattivo era affidata ad occhiali speciali o lenti a contatto, quindi al trapianto in caso di evidente deformazione della cornea. Ma qualcosa negli ultimi tempi è cambiato. Oggi ci sono diverse terapie che consentono di ritardare o di stabilizzare il fenomeno in modo da rendere più remota la necessità di trapianto. Oggi in particolare parliamo di crosslinking. Cercheremo di capire con l'aiuto dei nostri ospiti in che cosa consiste, come funziona, quali risultati garantisce, quali possono essere i rischi, i limiti, le zone ancora d'ombra. Sono in linea con noi il dottor Claudio Genisi, responsabile della divisione oculistica all'ospedale San Camillo di Treviso e vicepresidente dell'Accademia Italiana Scienze Oftalmologiche. Dottor Genisi, bentornato. Buona giornata a lei. In linea con noi, qua da Milano, sotto la neve, anche lui come noi, il professor Paolo Vinciguerra, responsabile dell'unità operativa di oculistica di Humanitas. Professore, buongiorno. Buongiorno. 800 24 0024, questo è il numero per intervenire in diretta. I messaggi invece al 349 238 6666. Dottor Genisi, il crosslinking di cui parliamo oggi è stata salutata dal mondo scientifico come la tecnica con la T maiuscola. Ci spieghi in che cosa consiste? Vedremo poi in quali casi indicata, che rischi comporta, ma per ora limitiamoci a capire di che tipo di trattamento stiamo parlando. Allora, cercherò di essere semplice perché fosse capibile da tutti. Questa tecnica innovativa è, si chiama crosslinking, che vuol dire in un certo senso intreccio di una sostanza contenuta nella cornea che si chiama collagene. Sì. Praticamente si tratta di applicare una sostanza che è la riboflavina, che poi è la vitamina B2, parliamoci chiaro, fotosensibilizzante, e irradiare questa sostanza in cui, se pintassi questo passaggio, è stato messo a bagnomaria all'occhio, sì. Ecco, prima, poi questa sostanza viene in un certo senso, tra virgolette, congelata con dentro la cornea, con l'irradiamento di una luce ultravioletta a bassissima intensità, i cosiddetti UVA. Sì. Bene, l'effetto è che, siccome nel keratocono la stabilità e di queste fibre e di questi legami interfibrillari tra una fibrilla e l'altra è molto ridotto, addirittura del 50% rispetto alla norma, questa stabilità viene aumentata e c'è una specie di indurimento, chiamiamolo, sì, così, del collagene e qualche volta anche la retrazione di queste fibre. E questo è l'effetto. Questo è l'effetto, quindi in qualche modo contrasta la lassità della cornea, posso dire così, dottor Genisi? Benissimo. Professor Vinciguerra, questa tecnica ha acceso naturalmente gli entusiasmi di molti oculisti e le speranze di tanti pazienti, ma credo che sia necessario qualche puntualizzazione. Iniziamo a capire chi è il candidato ideale. Ci sono limiti tipo età, spessore corneale, magari degli interventi precedenti che il paziente ha effettuato? Dunque, il primo passo da chiarire con i pazienti, con i nostri ascoltatori, è che questa metodica ha la funzione di bloccare il peggioramento, come ci ha detto il dottor Genisi, cioè, sì, aumentare i legami fra le varie fibrille in modo che la cornea smetta di deformarsi costantemente, perché è esperienza comune di tutti questi pazienti che ogni mese, ogni due mesi si accorgono di veder peggio, quindi lo scopo è stabilizzarli. ma non di farli migliorare. Questo avviene in un 30-40% dei casi, ma non è una cosa da promettersi, perché quel miglioramento che noi osserviamo con i nostri strumenti non sempre si traduce in un miglioramento della vista. Quindi è inutile creare delle attese che poi sono regolarmente non mantenute. Mentre noi dobbiamo vedere se il paziente è in fase peggiorativa. Questo è possibile vederlo soltanto se noi facciamo due esami in sequenza temporale, cioè uno al tempo zero e uno 2 mesi, 3 mesi dopo, 8 mesi dopo, e dimostrare attraverso questi due esami con delle mappe specifiche che fanno la differenza fra i due tempi di esame se c'è un peggioramento. Peggioramento che si vede nell'incremento della deformazione o della curvatura che la cornea ha e un assottigliamento dello spessore nel punto dove si sta generando questa deformazione. In mancanza di questi esami, l'arruolamento in questo tipo di trattamento è indebito, non è la giusta sequenza, a meno che si disponga storicamente di esami topografici fatti prima. Allora io ne faccio un altro e lo paragono e posso dirlo, ma ci vogliono sempre due osservazioni. Quindi è importante per arruolare i pazienti, è necessario fare questi esami, sì, che spingono l'oculista a proporre questa tecnica. Però ci sono dei limiti, lo spessore deve essere almeno 400 micron nel punto più sottile. Per certi casi particolari si può espandere, cioè aumentare temporaneamente lo spessore, ma di questo semmai parliamo dopo. E l'altro aspetto fondamentale è che non ci siano stati delle perforazioni corneali pregresse, perché quello che si vede è che se noi trattiamo questi casi con il cross-linking possiamo riaprire queste perforazioni, perché il tessuto si mette in tensione, come capita negli esiti di radiali, e a volte ci sono degli inconvenienti. Ma, dottor Genisi, l'età può anche fare la differenza? Rilacciandoci proprio a quello che ha detto giustamente il professor Vinci Guerra, in maniera estremamente chiara e significativa, soprattutto nei significati che cui vuol dare, cioè di stare attenti a fare questo esame, questo tipo di intervento solo veramente a chi ne ha bisogno e ha le indicazioni. L'età, normalmente il teratocono statisticamente a cavallo dei 40-50 anni tende o a progredire di meno già naturalmente, si arresta addirittura un po'. Ad arrestarsi, sì. Questi pazienti per esempio al momento, poi si vedrà in futuro, al momento non sarebbero le persone più indicate, perché per intenderci sempre in maniera molto terra terra, se un cheratocono è già fermo di suo, perché devo andare a fare un trattamento per fermare una cosa che è già ferma? Tutto certo. Qui naturalmente quello che sta succedendo è questo, che in realtà lei mi parlava giustamente dell'età, il cheratocono invece che insorge in giovanissima età, ho visto i cheratoconi purtroppo a 12-13 anni, hanno una velocità di progressione pazzesca, e questi cominciano a diventare i pazienti diciamo che sono più adatti molte volte al trattamento, perché prima lo fermiamo e meglio è. Certo. Torniamo a parlare di cheratocono. Professor Vinci Guerra, arrivano già dei messaggi, ma per sapere quali sono i sintomi di questa malattia. Abbiamo capito che può insorgere anche nella giovane età, nella tenera età. Dunque, che noi cosa succede? Abbiamo anche trattato e abbiamo presentato adesso al nostro congresso mondiale di Dresda sul cross-linking in nostra casistica anche su minori, cioè bambini dai 10 fino ai 17 anni. Quindi il cheratocono tende a manifestarsi anche nei giovani, si manifesta tanto prima quanto più sarà aggressivo, cioè se io mi accorgo di avere il cheratocono a 20-22 anni di età, la mia prospettiva di peggioramento è meno grave di un individuo che lo presenti a 5-6 anni di età. Certo. Però ricordiamoci una cosa, siccome cross-linking deve fermare questo tipo di progressione della patologia, noi dobbiamo cercare di avere una diagnosi precoce, perché fermarla in una fase che noi chiamiamo preclinica, cosa vuol dire? Una fase in cui i sintomi quasi non ci sono, in cui la vista è buona anche senza occhiali, significa non aspettare quella fase in cui anche con gli occhiali o anche con le lenti a contatto il tuo viso sia 5, 6, 7 decimi. Certo. Quindi essere tempestivi. Il paziente però, tuttavia, rispondendo alla sua domanda, se ne accorge quando comincia a vederci male, quando comincia a vedersi distorto, quando anche con gli occhiali non riesce a venirne a capo, allora magari si arrende e va dall'oculista. Perché dico si arrende e va dall'oculista? Mi è piaciuto quel si arrende. perché purtroppo troppo spesso si confonde la figura dell'ottico che vende gli occhiali con quello che fa la visita, perché è una prestazione che viene intesa falsamente gratuita, ma è un abuso di una professione che non c'è. Sarebbe come io, che ho mal di pancia, oggi vado al macellaio, o se mi rompo un piede vado dal calzolaio. È la stessa cosa. Allora, possiamo dire, dato che spesso il paziente si accorge tardi che la situazione è peggiorata, quali sono le avvisaglie da tenere sotto controllo? Beh, innanzitutto un calo del visus. E sì, poi direi che la cosa che è standard è fare delle visite oculistiche programmate a certa età. Ora la facciamo all'asilo, per obbligo di legge, alle elementari, poi viene un po' a mancare. Però l'età della pubertà è quella critica, quindi intendo dai 10 ai 13-14 anni fare una visita oculistica annuale, utile, perché nel caso si manifesti la miopia la si prende in tempo, certo, ma se c'è il cheratocono ancora di più. Quindi quell'età critica, quella della pubertà, richiede non di farlo vedere dall'ottico impropriamente, ma fatelo vedere dagli oculisti. 824 0024, se avete dubbi, sospetti, se siete affetti da cheratocono, volete saperne di più di questa tecnica, del cross-linking, ma anche di sapere quali altre terapie sono oggi a disposizione, potete intervenire naturalmente o scrivere al 349-238-6666. Una mela al giorno. Oggi la Dichiarazione dei diritti umani compie 60 anni. I 30 articoli di cui si compone enunciano un'ampia gamma di libertà e diritti fondamentali a cui tutti gli uomini e tutte le donne, ovunque nel mondo, dovrebbero avere accesso senza distinzione alcuna per ragioni di sesso, lingua, religione, ricchezza, nascita o altra condizione. È quindi un codice etico che tutela tutti, quindi anche quel 10% della popolazione mondiale, la più grande minoranza del mondo costituita dai disabili. In linea con noi abbiamo il professor Tommaso Daniele, che è presidente dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovidenti e presidente del Forum Italiano sulla Disabilità. Professore, buongiorno e bentornato. Buongiorno, grazie. Professor Daniele, io vorrei che lei ci aiutasse, l'avete fatto anche voi di recente in un convegno, a fare un bilancio. A 60 anni dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, quali conquiste, quali sfide per le persone con disabilità? Ma direi che la conquista più significativa è la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti umani delle persone con disabilità, che i disabili hanno voluto fortemente e dopo anni di lobby sono riusciti a ottenere nel 76. Poi questa convenzione è stata sottoscritta da tutti gli stati e ora deve essere ratificata, che è l'atto più importante. Anche in Italia siamo in questo processo, il governo ha presentato un disegno di legge di ratifica, ora deve essere approvata dal nostro Parlamento. Questa convenzione è molto importante perché per la prima volta i diritti dei disabili sono fondati non più sull'assistenza ma sul concetto di diritti umani, proprio sulla Dichiarazione dei diritti umani di cui ricorre il 60° anniversario. Si passa dall'assistenza, dal concetto di assistenza a quello dei diritti umani. Una vera e propria rivoluzione culturale. Soprattutto perché, professor Daniele, sta crescendo la cultura che fa sì che riusciamo a iniziare, no, a vedere la disabilità come una risorsa e non come un problema. Sì, questo è vero, anche se questa cultura comincia appena ad alveggiare perché ci sono ancora tantissimi pregiudizi e a volte si pensa che i disabili sono uguali agli altri, che non hanno bisogni particolari, altre volte addirittura che la disabilità sia un vantaggio per chi ne è portatore, e in realtà non è così, perché la disabilità è comunque un limite, anche se questo limite può essere superato e qualche volta per gli altri diventa una risorsa, perché chi non ha problemi, chi non ha minorazioni, vivendo a contatto con i disabili, cresce psicologicamente, cresce moralmente, cresce socialmente. In questo senso è una risorsa. E tuttavia c'è ancora tanto da lavorare. Professor Daniele, io la ringrazio per essere stato con noi. Abbiamo festeggiato insieme i 60 anni della Dichiarazione dei diritti umani, dando voce alle associazioni dei disabili, a quel 10% della popolazione che deve essere comunque sempre tutelato. Professore. Io penso che questa sia una occasione per ricordare al governo, al Parlamento, che bisogna dare concreta attuazione ai diritti sanciti nella nostra Costituzione, e speriamo che la Convenzione costituisca il veicolo giusto per creare questa nuova cultura. Grazie professor Daniele, alla prossima, buona giornata. Grazie. Pronto soccorso. Torniamo ad affrontare il tema del giorno, parliamo di cheratocono, una malattia che cambia la forma della cornea producendo deformazioni visive che aumentano con il progredire della malattia. In linea con noi abbiamo il professor Vinci Guerra e il dottor Genisi. Insieme al professor Vinci Guerra abbiamo così delineato le caratteristiche del candidato ideale. Abbiamo capito che questa tecnica serve, professore, mi aiuti, ad arrestare l'evoluzione della malattia, giusto? Non sempre, non è detto che si veda poi meglio, però anche può capitare. Abbiamo una percentuale significativa di pazienti che a distanza di tempo riducono anche l'occhiale, cioè hanno una diottria circa meno di miopia e circa una diottria meno da astigmatismo, ma è una porzione della casistica, non è di tutti. Certo. Quindi noi non possiamo dire in anticipo lei rientrerà in questi candidati che hanno questo miglioramento o no, ed è per quello che il candidato che approccia questa tecnologia deve farlo sapendo una cosa fondamentale: non peggiora. Allora le faccio un esempio. Quando noi abbiamo fatto lo studio per il ministero ci aveva obbligato a fare un solo occhio, il peggiore, e tenere in osservazione per 2 anni questi casi. Alla fine dell'osservazione noi ci siamo trovati in serie difficoltà, perché l'occhio peggiore era diventato il migliore perché si era arrestato il peggioramento, mentre l'altro continuava a peggiorare ed era diventato il peggiore. Quindi spesso il candidato che fa questo sottovaluta la prospettiva di peggioramento che poi lo conduce anche al trapianto e si limita a vedere il fatto, dice: ma ci vedo come prima. Sì, però ci avresti visto molto peggio in 12 mesi. Certo. Un'altra cosa da dire, mi scusi, no, è che il miglioramento tutto continua nel tempo, cioè quando si innesca questo miglioramento noi abbiamo 2, 3, 4 mesi in cui il paziente può vederci anche un po' meno bene di prima, poi torna a vedere come prima. Da quel momento si cominciano in questi casi ad osservare un lento ma costante miglioramento che dura non solo dal 6° mese al 1° anno, ma a volte anche dal 1° al 2° anno e dal 2° al 3° anno. Grazie professor Vinci Guerra, perché nel corso della trasmissione cercheremo di fornire tutte le informazioni necessarie in modo che i nostri ascoltatori nel caso abbiano tutte le competenze necessarie per capire esattamente che cosa questa tecnica può offrire loro e che cosa si devono anche sentir dire dal medico. Abbiamo in linea con noi Demetrio, ci chiama da Reggio Calabria, 800 24 00 24. Buongiorno Demetrio. Buongiorno a voi, grazie per l'opportunità che ci date. Demetrio, lì di neve non ne avete, vero? Cosa, scusi? Avete un po' di neve anche a Reggio Calabria o vi ha risparmiato? No, da noi latita, la neve latita. Bene. Anzi, fino a pochi giorni fa c'è ancora una temperatura estiva quasi. Magnifico. Andiamo al cheratocono. Perfetto, io chiamo per mia moglie, 37 anni. In pratica alla quale è stato diagnosticato un 7-8 anni fa un cheratocono, e qui già volevo fare la prima domanda. Infatti il cheratocono è stato diagnosticato da un solo occhio, sì, che ci hanno detto che è una cosa rara o difficile, quindi volevo chiedere se andando avanti negli anni anche l'altro occhio potrebbe essere affetto da cheratocono. Sì, la prima domanda. Prima domanda. La seconda? La seconda, siccome mia moglie ha cercato di correggerlo con le lentine rigide, non le ha sopportate e quindi poi ha rinunciato. Sì. Che la tocone è andato molto avanti e ci hanno detto che è una fase ormai, diciamo, molto avanzata, infatti vede poco o nulla da quell'occhio. Sì. Si era stato proposto, credo con della microchirurgia da un oculista, l'inserimento di alcuni anellini che avevano lo scopo di schiacciare la cornea. Sì. In modo da un po' di tenerla un po', di ingessarla un po'. Sì. Sì, però c'era già stato detto una soluzione così un po' fallita, perché la cornea con il tempo avrebbe continuato a spingere, quindi la deformazione sarebbe poi, insomma, accentuata lo stesso. Volevo sapere bene cosa ci consiglia. Allora, certo, due specialisti per due domande con una risposta rapida prima dei mercati. Dottor Genisi, cheratocono o un solo occhio? Potrebbe interessare anche l'altro? Prima domanda. Allora, è un'evenienza statisticamente di grandissima eventualità che il cheratocono proceda, cioè inizi e proceda molto più velocemente in un occhio che nell'altro. Il 70% dei pazienti che operiamo di trapianto di cornea li operiamo in un occhio solo, il secondo occhio non fa tempo ad arrivare, tra virgolette, alla fase del trapianto. La signora mi ha detto 37 anni. Quindi giovane. Se andiamo a vedere una mappa corneale fatta bene, bene, bene, bene, una topografia corneale, probabilmente magari un piccolo inizio sull'altro occhio lo troviamo, è detto tra di noi. Però diciamo che ha buone probabilità che il secondo occhio non finisca mai in altre alternative. Il vuole che l'altra domanda risponda dottor Vinciguerra. Facciamo un po' per uno. Professor Vinciguerra, rapidamente, come ha fatto il dottor Genisi, sì. Le lentine rigide la signora non le sopportava. Le hanno proposto questa sorta di anellini, così abbiamo capito. Che cosa si può fare per chi non sopporta le lenti rigide? Ci sono delle altre alternative altrettanto valide come il crosslinking o è l'unica strada, ammesso che la signora rientri nel profilo del candidato ideale? Ma intanto non si possono dare delle indicazioni senza disporre della diagnostica di cui abbiamo parlato, degli spessori, la forma, perché ogni caso richiede una terapia diversa. Certo. Però, tornando alla nostra richiesta, intanto le lenti rigide non sono, a contatto rigide non sono l'unica risorsa, ne esistono di nuove morbide specificamente studiate per il cheratocono. Perfetto. Uno. Secondo punto, esistono degli occhiali che si chiamano berrometrici. Gli occhiali normali correggono soltanto la miopia, l'astigmatismo e l'ipermetropia, ma non la deformazione del cono. Sono degli occhiali che si possono realizzare facendo una berometria, che è un esame specifico, si spedisce poi il file che ha esportato questa macchina a un'azienda che scaverà una lente con un laser su misura di quel paziente, e quindi con questi occhiali ci si può vedere molto meglio di quanto si faccia con uno normale. Ci sono dei limiti sul numero delle diottrie, però è anche una risorsa. Certo, però già il fatto che noi sappiamo che ci sono delle lentine morbide e ci sono anche questi occhiali a berrometrici, abbiamo già qualcosa in più. Siamo tornati insieme, oggi parliamo di cheratocono, in particolare di crosslinking, una tecnica che permette di arrestare l'evoluzione di questa malattia. In linea con noi il professor Vinciguerra e anche il dottor Genisi, abbiamo Laura che ci chiama da Pesaro Urbino. Buongiorno Laura e benvenuta. Buongiorno a voi. E volevo fare innanzitutto i complimenti per la vostra trasmissione. Grazie. Dunque, io sono una ragazza affetta purtroppo da cheratocono, mi è stato diagnosticato nel 99. A quanti anni, mi scusi Laura, quanti anni aveva? 26-27 anni. Sì. E fortunatamente ho tollerato da subito, perché già le portavo in precedenza, le lenti a contatto. Sì. E quindi anche la lente specifica per cheratocono. Sì. E infatti da allora io eseguo costantemente controlli oculistici, mi dicono che il cheratocono è stabile. Bene. La mia preoccupazione però è questa, poiché io riesco a vedere sufficientemente solo con la lente, perché con gli occhiali ho veramente una vista pessima. C'è un intervento che potrei fare o comunque di cui mi potrei preoccupare oggi per pensare a un futuro in cui magari non riuscirò più a sopportare la lente a contatto? Grazie Laura. Professor Vinciguerra, naturalmente non si possono fare delle previsioni, perché voi avete bisogno, e soprattutto lei ha sottolineato in modo chiarissimo, di esami che permettono di vederci chiaro. Ma per dare un'indicazione a Laura e alle tante persone che ci stanno scrivendo, che si ritrovano in una situazione simile, persone che sono al momento soddisfatte dell'uso di queste lenti, che cosa si può dire? Può dire una cosa, che il fatto che sopporti bene la lente a contatto è un buon segno. Se il cheratocono è stabile, quindi la forma della cornea non si modifica, non c'è motivo di pensare che a un certo punto non lo sopporti più. Se poi la cornea cominciasse a deformarsi e di conseguenza far fatica a sopportare la lente a contatto, il crosslinking può stabilizzare. E qui Claudio Genisi è stato il primo a segnalare che dopo il crosslinking la sopportazione delle lenti a contatto è spesso migliorata, quindi darei la parola a lui. Dottor Genisi, tocca a lei. Grazie, ci dia Paolo. Buone notizie. Ma in realtà sì, no, in realtà giustamente il professor Viciguerra diceva che non bisogna mai promettere ai pazienti un miglioramento visivo, anche se, come giustamente ha notato, e tutti stiamo notando, che se il cross linking viene fatto bene, e la pregherei, dottoressa Carbone, se poi dopo ci domandasse come si fa. Ma ecco, certo. Viene fatto bene, obiettivamente quasi metà, diciamo, dei pazienti nel tempo, come diceva giustamente il professor Viciguerra, magari nell'arco anche di un anno o due, migliorano un po' la capacità visiva. Non tutti, ripeto, circa la metà. Ecco, detto questo, obiettivamente, molte volte mi è successo che il miglioramento visivo di pazienti, attenzione, che non sopportavano più la lente a contatto, questo per rispondere alla radioascoltatrice, che improvvisamente non sopportava più la lente a contatto, con l'occhiale poverini vedevano appunto fare 1-2 decimi, quindi sì, non era una vista sufficiente per una vita normale, fatto il cross-linking, improvvisamente dopo 4-5 mesi risopportavano benissimo la lente a contatto. Allora, il miglioramento visivo poi è stato poco, perché con l'occhiale magari prima vedevano 1-2 decimi, dopo il cross-linking, dopo 6 mesi ne vedevano 3, quindi era poca la differenza. Quello che invece è stata la differenza enorme è che risopportavano la lente a contatto, quindi di fatto quel paziente con la lente a contatto poi vedendo di nuovo 9-10 decimi, ci ha guadagnato, è ritornato a una vita normalissima. Professor Viciguerra, che cosa mi devo sentire dire o cosa devo chiedere allo specialista che mi effettuerà il cross-linking? Insomma, quando questo trattamento viene eseguito a regola d'arte? Naturalmente noi dobbiamo affidarci al medico, perché è l'oculista, no, che ci fa questo trattamento. Ma noi che cosa dobbiamo sapere? A quali indicazioni dobbiamo chiedere? Ma la prima cosa da valutare è gli esami che vengono fatti preventivamente. Cioè, se il cross-linking è proposto senza aver eseguito una topografia, una aberrometria, una mappa tomografica che ci dice anche gli spessori, un esame dell'endotelio, perché questa è una struttura delicatissima che potrebbe essere danneggiata in alcuni casi, se non si attuano delle precauzioni, se non viene fatta una vista normale, un esame della retina in dilatazione, se ci sono dei sospetti sulla retina, anche fare un OCT per vedere che, cioè, se tutta questa diagnostica sofisticata non è fatta, il rischio è che si venga ruolati senza le dovute cautele. Certo. Questo direi che è la cosa che il paziente deve vedere, cioè gli esami da fare sono significativi, e quanti più ne facciamo, tanto più il margine di sicurezza aumenta, che è lo scopo della medicina, cioè non nuocere mai. Certo. E andando nella tecnica, dottor Genisi, lei mi ha detto, le sarei grata se mi permettesse di dire come si fa un cross-linking a regola d'arte, cioè in tutta sicurezza, direi. La mia richiesta, che non voleva essere naturalmente scortese nei suoi confronti, dottoressa Carbone, no, era affatto. Solo perché la scienza insegna, e penso che su questo il professor Viciguerra sia d'accordissimo con me, conoscendolo, che non si può inventare tecniche per un certo periodo, variare tecniche, ma bisogna attenersi a dei cosiddetti protocolli quando c'è una tecnica nuova. Allora, il protocollo cosa dice? Perché qualcheduno sta già un po', posso dire, svicolando da questi protocolli. Il protocollo dice, uno, quello che ha detto il professor Viciguerra, si trattano i cheratoconi che sicuramente sono in evoluzione, non quindi prima visita, c'è il cheratocono, ti metto subito a fare il cross-linking. Primo. Secondo, seguire il protocollo internazionalmente approvato, che è quello, per esempio, il posizionamento del paziente, come le dicevo per scherzo, ma non per scherzo, prima a bagnomaria in questa sostanza, perché ci deve rimanere l'occhio a bagnomaria in questa sostanza per circa da un quarto d'ora alla mezz'ora, sì, deve essere fatto prima togliendo l'epitelio. Sì, cioè quella piccola parte di cornea superficiale che banalmente con una spatolina viene tolta. Terza cosa, è molto importante quindi che il paziente abbia durante tutto l'intervento questa sostanza presente sulla cornea, perché anche il dottor Viciguerra, il professor Viciguerra giustamente diceva di stare attenti a non lesionare le strutture profonde della cornea, quindi puntualmente ogni 5 minuti durante il trattamento tra virgolette laser, sì, e anche di più, direi che ogni 5 minuti, rinnovare l'instillazione di questa sostanza, cioè della riboflavina, per proteggere le strutture profonde ed avere, tra parentesi, maggiore effetto di questa terapia. Ultima e non ultima, è molto critico, a mio onesto avviso, ma vorrei sentire anche il parere del professor Vinci Guerra, la messa a fuoco perfetta del laser. Allora, per mettere a fuoco perfettamente il laser, non essendo i laser non avendo a disposizione un sistema micrometrico di messa a fuoco sulla cornea, bisogna basarsi su lettini, chiamiamoli così, letti particolari chirurgici, sì, che abbiano la possibilità di mettere a fuoco perfettamente. Non tutti hanno questi letti, e è una fase per conto mio molto critica, molto importante, perché il laser deve agire a 300 micron di profondità, né più né meno. E quindi se noi mettiamo a fuoco perfettamente probabilmente avremo un effetto ottimo, altrimenti no. Allora, queste sono tutte le indicazioni, professor Vinci Guerra, indicazioni molto tecniche. Io mi metto un po' nei panni del paziente che va da un oculista, che gli fa fare una serie di esami e che gli propone il keratocono, ma diventa un po' difficile chiedergli ulteriori informazioni. Lei come eseguirà l'intervento, mi tiene l'occhio a bagnomaria, eccetera. Però è meglio essere informati. Professor Vinci Guerra, vuole aggiungere qualcosa? Beh, dunque, ci sono però un modo per verificare questo. Intanto uno può chiedere che metodica impiega, cioè sì, se la metodica approvata dall'inventore, da Theo Seiler, oppure se uno inventa protocolli variati. Vede, questi protocolli variati, Claudio Genisi ha detto una cosa giustissima, si possono variare un parametro alla volta. Si fa uno studio serio approvato da un comitato etico, sì, per cui il paziente è informato che questo è uno studio sperimentale, dopodiché si pubblica il risultato su una rivista impattata peer review, che significa che ci saranno altri che controllano che tu non hai fatto follie. Certo. Se invece uno si inventa una tecnica per conto proprio, non lo dice a nessuno, non dice ai pazienti che sta facendo esperimenti, qui andiamo nei guai. E naturalmente, diciamo, i centri importanti non si comportano così, però bisogna stare attenti, perché ultimamente stanno venendo fuori pubblicità di nuove metodiche, nuove modificazioni che non sono certificate né da un punto di vista della sicurezza né da un punto di vista anche, diciamo, assicurativo. Ecco, perché questo è un po' l'obiettivo della puntata, invitare gli ascoltatori a informarsi e a dire non lasciate la strada certa, nel senso quella sicura, certificata, condivisa dalla comunità scientifica, per quella incerta. 800 24 00 24. Andremo poi da Giovanni, che ci chiama da Reggio Calabria, da Maurizio da Venezia, Luciano da Bologna, ma adesso andiamo a sentire le notizie sul traffico, a tra poco. Nuovo navigatore satellitare TomTom Go con tecnologia IQ Routes, il percorso più veloce ogni giorno. Vi presenta Che strada fa? Per le abbondanti nevicate di queste ore su molte autostrade del nord-ovest i mezzi pesanti non possono circolare, di conseguenza si congestiona anche il traffico in viabilità ordinaria. In queste ore è consigliabile spostarsi con catene al seguito e con gomme da neve. Nelle province di Genova, Alessandria e Savona sono obbligatorie le catene al seguito. Nevica anche nella zona di Piacenza in Emilia e in Trentino sulla 22 del Brennero. Le situazioni al momento più difficili sulla 4 Torino-Milano, 12 km di coda verso Milano tra Novara Est e Rho. Sul nodo di Genova, in particolare sulla 12 Genova-Livorno, lunghe code verso il capoluogo ligure. Inoltre si è formata coda per controllo mezzi pesanti anche tra Deiva Marina e Sestri Levanti, sempre verso Genova. A Milano è meglio evitare le tangenziali e il tratto urbano della 4. Verso Milano inoltre code sulle due autolaghi e disagi per il traffico nelle zone di Gallarate, Varese, Como e Lecco. Sulla 9 Lainate Como Chiasso verso la Svizzera i mezzi pesanti non possono circolare ed è sempre chiusa la dogana merci. Sulla 21 Torino Piacenza Brescia i mezzi pesanti diretti a Torino devono uscire obbligatoriamente a Piacenza. Inoltre divieto di transito nel tratto compreso tra Villanova e Voghera nelle due direzioni. Mezzi pesanti fermi anche sulla 15 della Cisa per tutto il tratto. Difficoltà inoltre nel Lazio per la pioggia. Ci sono code di 3 km sulla diramazione Roma Sud nella zona di Monteporzio Catone in uscita dalla capitale per un incidente da poco risolto e poi per un tamponamento tra Magliano Sabina ed Orte verso Firenze. Forti piogge inoltre sui percorsi autostradali della Sicilia. È tutto, il prossimo aggiornamento tra mezz'ora. Essere e benessere. Siamo tornati, in linea con noi Giovanni, l'avevo mandata a Reggio Calabria, in realtà ci chiama da Ragusa. Giovanni, buongiorno. Buongiorno. L'avevo fatta cambiare città. Ok, scusi, volevo un'informazione, volevo sapere tutto questo trattamento, se era mutuabile o era a pagamento. Bravo Giovanni, è quello che volevo chiedere io al dottor Genisi. Dottor Genisi, ci sono dei centri, tra l'altro l'elenco vi dico che potete averlo chiamando il numero verde dell'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità, IAPB, il numero verde è 800 06 8506. L'IAPB ha anche un opuscolo sul keratocono che potete scaricare da internet, oltre ad una scheda che hanno preparato proprio in occasione di questa puntata. Ma dottor Genisi, la risposta a lei. Ma esistono centri pubblici, privati, convenzionati, esiste un po' di tutto. Quindi il paziente sicuramente, giustamente pescando dall'elenco che lei ha giustamente citato, e naturalmente poi è un rapporto, come posso dire, quando si va da un medico è un rapporto personale. Certo. Ognuno va a farsi curare da chi desidera, da chi pensa o ha avuto informazioni, che possa essere un medico, io, esperto in materia, diciamo così. Certo. Ecco, quindi chiaramente poi la coincidenza vuole che questo medico sia in una struttura piuttosto che in un'altra, basta che segua, come dicevamo prima col professor Vinci Guerra, i protocolli corretti. I protocolli corretti, questo è quello che dobbiamo portarci a casa da questa trasmissione. I protocolli ci sono, ecco, tutte quello che sono alternative, cioè buttate lì, possono costare davvero care. Andiamo a Venezia, ci chiama Maurizio. Buongiorno Maurizio, benvenuto. Buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Io volevo un'informazione. Sì. Dopo l'estate, diciamo, di quest'anno, leggendo un libro, guardando le parole più piccoline, vedo un po' sfocato. Ammetto che io nell'81, durante il servizio militare, ho avuto il distaccamento quasi totale della retina dell'occhio sinistro e un herpes che mi aveva preso nell'occhio destro senza entrare comunque all'interno dell'occhio. Sì. Dopo questo io ci ho visto meglio di prima, diciamo. Cioè, sì. Avevo circa 12 decimi per occhio, cioè vedevo bene da lontano e da vicino. E da qualche mese così comincio a vedere sfocato. Maurizio, non so se serve, ma io glielo chiedo lo stesso. Quanti anni ha? 46. 46. Professor Vinci Guerra. Le visite al telefono non siamo ancora riusciti a farle, quindi sarà bene che si faccia vedere da qualcuno. Ecco, in presenza, quando la vista, c'è un calo di vista, si vede un po' torbido, come dice Maurizio, invece che temporeggiare, un saltino dall'oculista è sempre una buona idea. Allora Maurizio, lo mandiamo dall'oculista a farsi controllare la vista, anche perché dopo i 40 è opportuno visitare un oculista, o meglio farsi visitare da lui. Andiamo a Bologna, ci aspetta Luciano. Buongiorno Luciano. Buongiorno dottoressa, lei e i due dottori. Senta, io ormai le domande sono state fatte, ho capito benissimo. Però... Ha capito benissimo, bene, sì. Vuol dire che li inviteremo nuovamente perché sono chiari, bene, sì, quindi li abbiamo promossi. Dottoressa, no, mi scusi, siccome ho sofferto di questa patologia, io mi informavo per tanta gente che conosco perché appunto avendone sofferto dopo si diventa solidali l'uno con l'altro, perché io ho risolto il mio problema nell'86-88, sono stato operato alla clinica Barraquer di Barcellona, ma tutto è andato bene. E questa nuova tecnica non l'avevo mai sentito dire, però la domanda l'ha anticipato lei, se è mutuabile l'altro signore, per cui vi ringrazio e vi chiedo scusa. No, grazie Luciano di essere intervenuto. Allora, abbiamo un minuto prima di andare a prepararci una tisana riscaldante. Professor Vinci Guerra, abbiamo, mi sembra, presentato, Luciano ci ha dato una conferma, questa tecnica luce e ombre, indicazioni. Vogliamo aggiungere qualcosa? Ma direi che questa metodica apre una nuova strada, perché se prima il keratocono era soggetto a vedersi peggiorare costantemente la vista, adesso le parti si invertono, può vederla stabilizzata e in una buona percentuale di casi vederla lentamente migliorare. Questo non è da poco. Una cosa che direi a tutti i pazienti che hanno questa patologia: se hanno l'abitudine di strofinarsi gli occhi, di non farlo, perché una struttura indebolita per la patologia come la cornea, il keratoconus, è sottoposta periodicamente nella giornata a una pressione aumentata, tende a progredire più rapidamente. Un'ultima domanda al dottor Genisi: se l'operazione non ha, se il trattamento di crosslinking non andasse bene, dottor Genisi, è possibile poi effettuare il trapianto nel caso il keratocono evolvesse e quindi rendesse necessario il trapianto, oppure no? Allora, le rispondo a questa domanda e una piccola aggiunta. Allora, uno è, non c'è nessunissima nessunissimo problema, sì, è già successo, tra parentesi, soprattutto sui primi casi a cui erano stati sottoposti i pazienti, tra virgolette, sperimentali, sì, che sapevano che sperimentare la tecnica 4 anni fa, che avrebbero dovuto fare il trapianto dopo, perché in realtà il cross-linking era sperimentale. Sì. Bene, non c'è nessun problema, anzi, forse potrebbe essere addirittura facilitato, perché l'indurimento, chiamiamolo così, della cornea fa sì che probabilmente la parte periferica della cornea, con lei abbiamo parlato già tante volte di trapianto, ecco, viene lasciato un anello periferico di cornea del ricevente e applicato, non tutta la cornea quando si fa un trapianto, del donatore. Bene, lasciando questo anello periferico che era stato sottoposto a cross-linking, probabilmente, dico probabilmente, avremo dei risultati per quanto riguarda soprattutto l'astigmatismo dopo l'intervento, forse, dico forse, sempre un po' migliori. Quindi prima cosa. Seconda cosa che non abbiamo ancora detto è quanto dura l'effetto di questo intervento. Ed è, lei diceva, sviscerate tutti i problemi. Non facciamo promesse. Attualmente si parla di un follow-up, di un'osservazione dei pazienti di 3-4 anni di temperatura. Sembrerebbe, come ha detto giustamente il professor Vinci Guerra, che addirittura, e questo è confortante, che si vedano dei miglioramenti addirittura nel tempo ancora maggiori, più passa il tempo. Però non possiamo. Non dobbiamo promettere al paziente certo durerà per sempre, perché non lo sappiamo, non possiamo saperlo. Ma noi ci terremo aggiornati. Dottor Genisi, io la ringrazio, ringrazio anche il professor Vinci Guerra che è stato con noi. Grazie a tutte e due. Grazie mille. Vi ricordo sempre il numero dell'IAPB a cui potete telefonare, 800 06 8506, e saluto il nostro amico il dottor Crepaldi, buongiorno, presidente della Fondazione Matteo Ricci di Bologna, medico agopuntore, esperto in medicina tradizionale cinese. 30 secondi per darci una tisana riscaldante. Oggi fa freddo, metà Italia è sotto la neve, via con una ricettina, non ce la può preparare lei ma noi prendiamo appunti. Allora, la tisana è una tisana di zenzero. Sì. Lo zenzero è un tubero che è usatissimo in Cina e in India, ha un aspetto tipo simile alla patata con una buccia. Si trova nei supermercati ovunque. Lo si trova tranquillamente nei supermercati o dagli erbivendoli e si fanno delle fettine sottilissime, 3, 4, 5 fettine, le si mette in una tazza. Gli si lascia bollire l'acqua, si mette l'acqua nella tazza, si lascia in infusione per 3-4 minuti e si beve. Provatela. Si aggiunge lo zucchero di canna, sì, lo zucchero di canna, e diventa una bevanda eccellente per scaldare soprattutto le vie aeree superiori. Dottor Crepaldi, la proveremo, intanto voi se la provate diteci se vi è piaciuta. Dottore, la ringrazio per essere stato con noi. Andremo di zenzero e noi ci sentiamo invece domani dopo il GR delle 11. Buona giornata da Nicoletta Carbone.